Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Ben ritrovati on the road, sulla strada, che anche questa settimana attraverso le onde web di Radio Libriamoci ci narra storie di fantomatici incontri, come quello che potrete ascoltare a breve tra niente di meno che Giuseppe Verdi e Giovanni Guareschi, scritto da Marina Garaventa. Io sono Livia Napolitano e vi ricordo che potete ascoltarci ogni martedì, giovedì e sabato alle 10, alle 16 e alle 22 su Radio Libriamoci Web, nonché in podcast su Nottetempo Blog all'indirizzo www.nottetempoblog.wordpress.com. Fra l'altro, questo racconto inaugura una nuova rubrica su Nottetempo dedicata all'opera e a cura di Marina Garaventa. Marina Garaventa è cresciuta in una famiglia di musicisti. Suo padre, Ottavio Garaventa, è stato un tenore di fama internazionale e sua figlia Marina, sin dalla fondazione dell'Associazione Culturale Daphne nel 97, si è sempre prodigata nell'organizzazione di spettacoli musicali con e per i giovani e ancora oggi mette a disposizione la sua passione e la sua cultura affinché l'opera lirica possa essere divulgata e valorizzata anche attraverso la rete. Rimanete quindi all'ascolto di un nuovo racconto di Marina Garaventa dal titolo Peppino e Giovannino. Buon ascolto. Peppino chiuse la porta della piccola casa e si fermò in mezzo alla piazza. C'era la nebbia, ammantava da sempre la pianura emiliana, la solita nebbia che sola era rimasta uguale nel trascorrere degli anni. La bianca barba ben curata di Peppino sembrava brillare, brillante di goccioline d'umidità, mentre gli occhi acuti lanciavano sguardi severi sulle poche macchine posteggiate intorno ai resti del palcoscenico su cui d'estate facevano l'opera. Distolse lo sguardo, distratto dal rumore di una porta sbattuta. In maniche di camicia, i grossi baffoni neri, lo sguardo ironico di chi è pronto ad irridere il prossimo e se stesso, Giovannino lo fissava. In realtà le loro vite non si erano incrociate, ma da un tempo ormai lontano, incalcolabile come l'eternità, si incontravano lì, in quel piccolo paese, sul crocevia che li avrebbe accomunati per sempre. Da una parte la casa dove Peppino era nato, dall'altra il caffè dove Giovannino aveva vissuto nella tarda età. Ogni mattina, nel momento in cui le ombre della notte si dissolvono per far posto alla realtà del giorno, i due si incamminavano a passo lento verso Busseto. Non ha molto da dirsi, poiché ormai sanno già tutto, ma solo ogni tanto si scambiano ricordi e riflessioni. Camminano vicini finché raggiungono la campagna aperta e sostano sul ciglio d'un campo. Giovannino tira fuori un quaderno e comincia a schizzare vignette. Peppino osserva la terra arata di fresco e canticchia sottovoce il va pensiero. Canta, canta, che intanto quel diavolo d'un Bossi vuol dividere l'Italia e si è preso la tua musica come inno. E dire che io ho scritto paginate di note per unirla, risponde Peppino amareggiato. Insieme riprendono il cammino respirando nell'aria umida. Le automobili sfrecciano veloci mentre qualche raro ciclista si avventura sulla strada ma non vede le due strane figure. Preti in bicicletta non se ne vedono più, mormora il maestro. Sono solo rimasti nei tuoi film. Già sempre quel Fernandel non aveva la minima somiglianza col mio Don Camillo, però era talmente bravo che ha soffiato il posto al mio pretone. In fondo, però, dopo tanti anni si divertono ancora con quello che abbiamo fatto noi due. Le mie opere si suonano dappertutto e tu sei lo scrittore italiano più letto e tradotto. Hai ragione, però per il centenario della tua morte hanno fatto feste e convegni. Per i 100 anni della mia nascita non si sono mica strapazzati tanto. Perché io, caro il mio Guareschi, ho scritto note, mentre tu, con le tue parole, hai fatto venire i triboli a troppa gente. ai rossi perché eri monarchico, ai bianchi per la storia di De Gasperi, eppure con la Chiesa non sei stato tenero. Che poi, caro il mio Verdi, a pensar bene ai politici di oggi, De Gasperi era una meraviglia. Di, Giovannino, senza paura, ti sarai mica pentito? Quello mai. Ho sempre agito con la convinzione di essere nel giusto. Tu piuttosto ci torneresti a fare il senatore. Adesso? Poco ci andavo allora ed oggi proprio non mi ci vedrei. Magari mi troverei seduto vicino al senatur. No, meglio lasciare tutto come sta. Si fa giorno. Convien dividerci. Ciao, Giovannino. Ciao, Peppino. A domani. A sempre. Improvviso. Un bus rumoroso passa e li travolge. Niente paura, sono solo ombre, ombre che si dileguano in uno sfarfallio di fogli bianchi e note lontane.